Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è il momento. Sono veramente felice di avere mantenuto Kakà al Milan e di avere in Kakà non soltanto un grande campione sul campo, ma un grande uomo, perché ha rinunciato alle offerte del Manchester dicendo proprio che i soldi non sono tutto e che lui privilegiava la bandiera Milan, l'amicizia dei suoi compagni e l'affetto che gli è stato dimostrato sempre, ma soprattutto negli ultimi giorni, da tutti i tifosi rossoneri. E quindi siamo tutti quanti felici. Non potevamo naturalmente, come avevamo già fatto con Shevchenko, dire di no ove un ragazzo che ha ancora 4-5 anni di carriera avesse avuto l'occasione di guadagnare il doppio, qualcosa che gli restava come patrimonio per tutta la vita, ma lui non ha voluto nemmeno che si perfezionasse l'offerta del Manchester e ha detto di no, anche senza conoscere l'offerta che sarebbe stata, credo, un'offerta molto molto elevata. E quindi resta con noi e noi non possiamo essere che felici, perché vabbè, i soldi sono importanti, ma ci sono delle cose che sono più importanti dei soldi. Era l'annuncio della lieta novella di Silvio Berlusconi ieri sera in diretta da Biscardi. I commenti. Partirei da quello di Gigi Riva, uno che, come l'ANSA ricorda, di gran rifiuti se ne intende per aver detto no più volte alle grandi del calcio italiano, alla Juventus, all'Inter, al Milan, durante i suoi anni d'oro cagliaritani. Riva ha detto: il sacrificio di Kakà è dolce come mangiare una torta gelato. Giocherà pur sempre in uno dei club più potenti d'Europa, dove ha vinto il pallone d'oro. Kakà è un ragazzo equilibrato, ma tutto sommato la sua non deve essere stata una scelta così difficile. In una dichiarazione successiva arriva poi aggiunto: Kakà in fondo resta al Milan, non al Poggi Bonsi, sperando che adesso non arrivino lettere di protesta e mail di protesta dai tifosi del Poggi Bonsi. Evidentemente il commento del Manchester City: il Milan, dice, ha detto Gary Cook, presidente esecutivo del Manchester City, che ha condotto in prima persona la trattativa, il Milan si è inchinato sotto la pressione dell'opinione pubblica, ma ha ricostruito la vicenda in questi termini. Il giocatore era chiaramente in vendita, ha dichiarato Cook. Avevamo raggiunto già diverse settimane fa un accordo confidenziale, ma il Milan l'ha imbottigliato. Dopo 3 o 4 incontri era chiaro che Kakà era in vendita e noi eravamo stati altrettanto chiari sull'intenzione di ingaggiarlo. Nell'ultimo incontro però sono emerse questioni che non potevano essere risolti. Credo che la politica e la pressione dell'opinione pubblica abbiano di fatto cambiato lo scenario. Nel frattempo il Bayern Monaco precisa che Ribéry non è in vendita, ed è una dichiarazione ufficiale di Rummenigge. Si era parlato ieri nella fase più convulsa della trattativa, quando ancora Kakà sembrava in partenza, di una possibile offerta del Milan per Ribéry. Rummenigge l'ha blindato fino al 2011. A Manchester l'hanno presa molto male, l'ha presa peggio di tutti Robinho, che era certo dell'arrivo del suo amico Kakà e che invece ha avuto un secco gesto di stizza, pare che abbia addirittura abbandonato l'allenamento e che a questo punto possa diventare oggetto delle mire del Chelsea, visto che insomma il ticket che gli era stato promesso era per l'appunto la coppia Robinho-Kakà. Dall'Inghilterra ne arriva un'altra, che è il West Ham di Zola, che ha perso Bellamy, acquistato nel frattempo da Manchester City, spero riusciate a non perdere l'orientamento in questo ufficio arrivi e partenze, avrebbe offerto oltre 10 milioni di euro per il giovane del Brescia, Savio Nsereko, che è una delle grandi promesse, che ha segnato 2 gol nell'ultima partita di sabato scorso. Ricordo che Savio è stato acquistato a suo tempo dal Brescia, per il Brescia, dall'allora direttore sportivo Gianluca Nani, che attualmente è il direttore sportivo del West Ham, e questo qualcosina potrebbe spiegare. Le mail arrivate tra la nottata e la mattinata sono tantissime, ci sono già degli ascoltatori collegati. Tra poco avremo con noi Marco Bellinazzo per un approfondimento preannunciato, già strillato ieri. Volevo leggervi 3-4 opinioni, perché io passo sempre un po' per lo scettico blu in queste vicende, in questo genere di vicende, ma mi pare che insomma, stamattina gli ascoltatori scrittori siano stati anche più realisti del re, nel senso che io sono anche disposto in una certa misura a credere che effettivamente Kakà abbia scelto di persona di rinunciare a un'avventura che non lo convinceva fino in fondo senza passare alla cassa. Mi pare che mediamente, da quello che ho letto, ripeto, tra tante mail, non sia così. Per esempio, scrive Matteo Colombini: a proposito del mancato trasferimento di Kakà, non pensa che sia stata tutta una grossa farsa con annesse frasi di rito per l'attaccamento alla maglia, dato che se invece del Manchester City ci fosse stato il Real, oggi staremmo parlando di una cessione avvenuta? Beh, insomma, diciamo che il sospetto c'è, ecco, mettiamola così. Non le sembra, scrive Davide Corbetta da Marghera, che Kakà sia soltanto, magari anche a sua insaputa, un mezzo per l'eterna campagna elettorale di Berlusconi? Non le sembra troppo facile per il Milan rinunciare a 120 milioni di euro e continuare a sottolineare questa cifra quando quella reale proposta dalla società era pari alla metà? Ma io non so da dove arrivino queste informazioni. La cifra risultava di 100, poi né lei né io l'abbiamo vista. Effettivamente ci sta tutto. Un altro ascoltatore, Gigi Castelli, scrive: Kakà non è mai stato in vendita, il contatto del City c'è stato, ma tutto poi si è costruito in senso nazional popolare, compreso il gran finale televisivo. Antonio Gagliotto da Piacenza scrive: io non seguo certe demenzialità televisive, ma mi sa spiegare perché Berlusconi ha scelto per annunciare la lieta novella proprio il processo di Biscardi? Caro Antonio, perché le affinità elettive qualcosa vorranno pur dire alla fine. Volevo chiederle se le sembra credibile, scrive Walter Sguazzin, un ennesimo adeguamento contrattuale, magari in nero, da parte del Milan a Kakà, e cosa potrebbe scatenare nei confronti degli altri giocatori big un adeguamento di ingaggio. Io da interista temevo, sportivamente parlando, una seria rifondazione rossonera con la cifra che il Milan avrebbe incassato, mentre così continueranno a investire in domatori nani e donne cannone. Qualcun altro insiste ancora su Biscardi, qualcuno insiste come Giulio Torelli sull'aggiornamento interminabile in una campagna elettorale, insomma, poi ce ne sono altre che vi leggerò nel frattempo. Darei uno spazio campione a due ascoltatori e poi apriamo, vi dicevo, quell'ampia parentesi di documentazione interessante. Armando, provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno dottore, io la seguo da parecchio tempo, sono uno juventino di 42 anni, paradossalmente ho cominciato ad apprezzare il calcio quando Juve è andata in Serie B, nel senso che prima, per tanti motivi, era troppo facile vincere come si vinceva, possiamo dirlo, adesso apprezzo sicuramente il calcio in modo diverso. Mi ha fatto molto piacere avere visto questa società, questa dirigenza crescere piano piano, speriamo che comunque vada avanti a crescere così. Un'altra cosa che volevo dire relativamente a Kakà: io voglio credere nella favola che effettivamente Kakà invece è rimasto per l'attaccamento alla maglia, poi sarò smentito sicuramente alla prima occasione quando probabilmente verrà ceduto quest'estate, però anche da tifoso juventino, dopo aver visto quello che è successo a Buffon, a Del Piero, ad altri, sono contento che sia andata così. Grazie, l'ascolterò ancora a lungo. Grazie a lei di questa fedeltà. Ecco, mi pare che il suo sia un riferimento quanto mai pertinente. Lei ha parlato di Buffon, ha parlato di Del Piero, ha parlato di giocatori che 2 anni e mezzo fa, quasi 3, hanno offerto una prova all'attaccamento alla maglia, che senza nulla togliere al Kakà di oggi, diciamo che era una scelta di vita di quelle che costavano, quelle, no? La scelta di vita di Kakà al momento non costa. Lo dico con grande rispetto per il gesto di Kakà, perché comunque io sono il primo a riconoscere che ieri sera, quando ho letto un'agenzia e poi ho visto su televideo, prima della lieta novella, ripeto, poco prima, che Kakà si era affacciato al balcone toccandosi con una mano la maglia e con l'altra il cuore, mentre in sede il babbo si stava toccando i portafogli probabilmente, è stato inevitabile pensare a Ronaldo e alla sceneggiata di Ronaldo sul balcone quando giurava eterna fedeltà all'Inter e aveva, se non già firmato, comunque era d'accordo con Real. Credo, con quel pizzico di cinismo che spero mi rimanga per sempre, perché preserva, penso che la differenza tra Ronaldo e Kakà sia la differenza che passa tra Real Madrid e il Manchester City, e non credo di sbagliare. Detto questo, poiché la venalità nel mondo del calcio non è un'invenzione, il fatto che alla fine comunque Kakà abbia privilegiato l'affetto per i tifosi, certamente sì, per la maglia, eccetera, abbia privilegiato, io la chiamerei la scelta tecnica. Beh, gli fa onore comunque, in ogni caso, al di là poi di tutti i distinguo che si possono fare e dello sfruttamento mediatico, e qualcuno dice anche politico, che della vicenda poi è stata fatta, ma era inevitabile farlo ad un certo punto per come si era messa. Aggiungo, magari se ne parlerà più tardi con qualche ascoltatore, che io credo che, e questo l'avevo già detto ieri, che il distacco ridotto da 9 a 6 punti domenica abbia ulteriormente cambiato le cose, sia per la società ma che per lo stesso Kakà. Perché a questo punto un obiettivo primario come il campionato è ridiventato più alla portata del Milan di quando non fosse qualche ora prima. Ancora un ascoltatore e poi, ripeto, cambiamo un pochino pagina. Michele da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Ma premettendo che secondo me la telenovela Kakà riprenderà a giugno, quando passerà l'assalto Florentino Perez. Sa che io non ci credo, non è che non ci creda, Florentino Perez ci proverà, però io penso che proprio perché Kakà si è esposto a questa maniera nei panni del bravo ad ogni costo, io credo che farebbe un po' fatica da qui a 5 mesi ad accettare la corte del Real. Però dicami, scusi. Diceva poco fa, abbastanza smagata, conservi il cinismo, perché a giugno magari non ci dovremo poi scandalizzare più di più se sentiremo questa storia. Io in realtà però le volevo offrire una clamorosa boccata d'ossigeno, perché credo che oggi la puntata sia quasi monotematica su Kakà, Berlusconi o magari l'inizio di Calciopoli, parlandole magari di un ragazzo che il ragazzo più non è, che è Marco Di Vaio, capocannoniere del campionato, che secondo me è una squadra come il Bologna, che non è l'Inter, non è la Juve, non è il Milan, quindi non ha così tante palle giocabili lì davanti, sta tirando avanti la baracca e sta di fatto tenendo in linea di galleggiamento il Bologna, che non è obiettivamente una squadra attrezzata per restare in A. E secondo me questo ragazzo, che comunque ha giocato presso platee importanti sia in Italia che all'estero, credo che gli vada dato merito che stia facendo un campionato davvero eccellente, e che forse un pochettino di spazio in più anche all'interno delle cronache delle varie domeniche sportive, dei vari Michele, lei si sta facendo del male da solo. Se va avanti così, arriva Osheik pure per Di Vaio, Kill pure capocannoniere, e quindi starei attento a... Già, è ovvio che sto scherzando. Di Vaio sta facendo una delle stagioni più strabilianti tra i protagonisti del campionato di adesso. Un altro è Doni, certamente. Se parliamo di giocatori in età, stanno vivendo quella che una volta si chiamava l'estate di San Martino, perché in genere questi revival in carriera già avanzata sono abbastanza brevi. Io gli auguro che sia assai più lunga. Stopperei per il momento i vostri interventi. Vi inviterei a pensare che, se per caso, ormai tutti i milanisti sanno dove abita Kakà, perché gli hanno fatto i sit-in sotto casa, ieri sera hanno pianto, c'erano le lacrime insieme alla pioggia, no, in questa grande suggestione dopo l'annuncio, ripeto, della lieta novella. Se per caso qualcuno avesse visto recapitare in mattinata un enorme fascio di rose rosse, sappia che erano, a parer mio, certamente di Mourinho, perché le minchiate di Mourinho a Bergamo sono passate in secondo piano grazie esclusivamente alla partecipazione straordinaria di Kakà alla telenovela al lieto fine. Bentornato a Marco Bellinazzo, buon pomeriggio. Abbiamo un minutino circa, anzi scarso, io direi di fare prima l'intervallo per il traffico, abbiamo un minutino circa per introdurre l'argomento. L'argomento, per la verità, l'ho già introdotto ieri, perché il titolo che campeggiava sull'edizione di lunedì di ieri del Sole 24 Ore e il servizio poi anche all'interno, e per l'appunto firmato per Marco Bellinazzo, era di quelli a cui sinceramente non si può resistere. Mourinho batte Rocco 70-1. Il Paron del Milan guadagnerebbe oggi 130.000 euro l'anno contro i 9 milioni del portoghese. Si tratta ovviamente di cifre già, le cifre rocchiane sono evidentemente già rivalutate, tengono conto di tutti i parametri del potere d'acquisto, almeno così mi pare di aver capito. Allora, la parola a Marco Bellinazzo e a questo Mourinho batte Rocco 70-1. Ci siamo divertiti a scandagliare un po' nelle follie del calcio, anche quelle d'antan. All'inizio devo ammettere, io non ero tanto convinto, diciamo, dal punto di vista giornalistico dell'opportunità di questo servizio. Insomma, parlare delle spese folli nel calcio è quasi una non notizia, no? Come il cane che morde l'uomo. È vero. Però invece, ecco, andando a, soprattutto a fare questi paragoni, utilizzando dei criteri che permettono di aggiornare, diciamo, le cifre del passato, ci siamo accorti che non solo ogni epoca ha avuto le sue spese folli, gli acquisti folli come li abbiamo chiamati, ma questi acquisti nel corso degli anni sono diventati effettivamente sempre più folli. Siamo partiti da un dato che ci sembrava molto carino da sottolineare, carino tra virgolette, premesso che molto difficile dire quanto effettivamente guadagnava o guadagni un calciatore o un allenatore, perché sono cifre che, ahimè, conosce soltanto l'Agenzia delle Entrate, visto che dallo scorso maggio c'è questo obbligo per le società di comunicare ufficialmente i guadagni dei calciatori, per cui, insomma, ragioni di privacy fanno sì che questi dati siano gelosamente custoditi, quindi si parla di voci. Ci ha colpito molto che, andando a guardare un po' a quello che è stato uno dei maggiori allenatori italiani, no? Nero Rocco, che ha portato la prima Coppa dei Campioni al Milan nel 63, abbiamo verificato più o meno che guadagnava circa 1.000.000 lire al mese più i premi, che attualizzati fanno circa 10.500 euro al mese, e quindi più o meno una cifra di 130.000 euro l'anno, senza premi. Senza premi, però, e sono senza premi anche i 9 milioni di Mourinho, che poi erano stati rivendicati in 11, mi pare, no? Sì, quando... sì, che ha parlato di 12, di 13, sì. Poi l'Inter ha smentito. No, lui ha parlato. Lui. Grosso modo, diciamo, il rapporto che abbiamo scritto, insomma, è evidente, è insomma, Mourinho batte Rocco 71. Ma soprattutto poi è stato carino parametrarlo a quelli che sono, diciamo, che erano i guadagni medi, insomma, gli operai, non per fare del moralismo, però no. È giusto per rendersi conto, insomma, della cosa. Più o meno nel 63 il livello medio di un guadagno di un operaio era 70-80 mila lire al mese, quindi il rapporto era di circa 1 a 15, 1 a 20, insomma. Tra un lavoratore della vita reale e un fortunato un allenatore di punta dello sport, perché non era ancora spettacolo allora, del mondo dello sport. Adesso è un altro adesso mondo, forse è qualcosa di diverso. Tra il salario o lo stipendio medio di un operaio, di un impiegato di oggi, insomma, dai 20.000-25.000 euro all'anno e i 9 milioni di Mourinho, insomma, il rapporto è di 1 a 500, 1 a 400, insomma, e si vede dilatarsi questo divario, che è, se vogliamo, insomma, anche frutto del mercato. Chi è allergico ai moralismi dice, insomma, è il mercato, bellezza, e evidentemente il giro d'affari che non c'è dubbio. Io posso trovare un altro piccolo motivo, non per arrivare a 1 a 70, intendiamoci, ma insomma per spiegare in parte il divario. Mourinho è arrivato all'Inter come un allenatore molto celebrato, è arrivato dalla Premier League, è arrivato da una serie di comunque di successi. Quando Rocco arrivò al Milan nel 62-63, cioè il parametro preso da te per questo parallelo, Rocco era un allenatore in grande ascesa, aveva fatto grandi cose a Padova, però a Padova in provincia, ed era ancora atteso alla prova del 9, alla prova della grande squadra. Poi la vinse subito con campionato primo anno e Coppa di Campione addirittura al secondo, ed era la prima della storia del calcio italiano. Ma insomma, supponiamo pure che anche di questo andasse tenuto conto, ma non si può mai arrivare a un rapporto demenziale di 71, insomma. Evidentemente, e tra l'altro siamo andati anche a guardare un po' nelle storie del calcio, visto che si parlava di questa in quei giorni quando è uscito l'articolo, ma anche, insomma, la questione si è risolta ieri sera, no? Questa offerta folle, come tanti l'hanno definita, per Kakà. Il primo grande acquisto, diciamo, che aveva un po' sconvolto le cronache dell'epoca era stato fatto dal Napoli nel 52, e manco a farlo apposta, per una coincidenza storica, si parlava di 100 milioni anche in quel caso, anche se erano lire, ovviamente. Manco a farlo apposta era Achille Lauro, a proposito delle coincidenze, ma questo è un altro discorso. Questa è un'altra storia. E l'acquisto fu fatto, insomma, dal Napoli per comprare Hans Asse Jepson, lo svedese che fu soprannominato all'epoca o Banca Napoli dai napoletani, che sono sempre molto fantasiosi, diciamo. Fu soprannominato in una seconda occasione, non quando avvenne l'acquisto, fu soprannominato così la prima volta che gli fecero un brutto fallo a fuori grotta, no? Allora si giocava ancora al Vomero. Sì, al stadio Collana. Ecco, la prima volta che in una partita in casa gli fecero un brutto fallo e lui restò a terra per un po', l'esclamazione in tribuna, che poi divenne storica, divenne mitica, fu: Maronne è caduto Banca Napoli. E certo, con quello che era costato, con quello che era costato. Evidentemente. Tra l'altro anche prima di quel momento, insomma, del 52, ma già verso la fine degli anni 40, anzi forse prima, perché parli di Mazzola e Loic? Mazzola e Loic in tempo di guerra, nel 42, anche lì ci fu un'offerta record, si parlò addirittura di 1.250.000 euro, di 1.250 lire versati al Venezia, che fanno più o meno 636.000 euro ai valori attuali di oggi, quindi come si vede cifre, insomma, e di 80.000 lire mensili per i calciatori, più o meno guadagnavano 40.000 euro all'anno, insomma, attualizzati. Quindi, insomma, cifre che sono state poi ampiamente superate dal primo grande acquisto, come detto, quello di Jepson, ma soprattutto poi da quello del Golden Boy del calcio italiano, cioè di Gianni Rivera, che qualche anno dopo fu acquistato dall'Alessandria e passò al Milan nel 1960 per 125 milioni di lire. Anche in questo caso abbiamo fatto il giochetto di attualizzare, tradurre, e fanno guadagnava più o meno, insomma, 1,5 milioni di euro all'anno il buon Rivera, ed era però uno stipendio, insomma, che veniva considerato all'epoca assolutamente importante, rilevante, fuori parametro. Devo dire poi che il Napoli si è fatto è stato protagonista di grandi acquisti, perché un altro grande acquisto che è balzato alle cronache, ci spostiamo di qualche decennio, fu quello di Mister 2 miliardi, Beppe Savoldi, no, capocannoniere del Bologna, certo, che nel 75 fu acquistato appunto per 2 miliardi, che più o meno fanno 10 milioni di euro. 2 miliardi di Savoldi, di lire, fanno 10 milioni di euro. Nel 75. Nel 75. Quindi, allora, scusami, dato che io ho un dato che ho ricostruito proprio in tempi recenti, per ragioni precise che poi di cui un giorno altro parleremo. Nel 74, quindi l'anno prima, Rocco ottenne l'ultimo contratto da allenatore dalla Fiorentina e l'offerta fu di 50 milioni. Quanto erano 50 milioni allora del 74-75, per avere un'idea? Per avere un'idea, se abbiamo detto che 2 miliardi erano circa 10 milioni, sì, 50 milioni di lire all'epoca fanno ora più o meno 500 mila euro, qualcosa del genere. Quindi siamo più intorno al miliardo di lire, insomma, scarso, se vogliamo. Quindi una grande somma. Una grande somma. Il che significa che a fine carriera, perché quello fu il suo ultimo incarico professionale da allenatore in prima, perché poi divenne direttore tecnico, da carriera con due scudetti, due coppe dei campioni, eccetera, eccetera. Si era arrivati, forse era a quel punto l'allenatore italiano più pagato, uno dei più pagati, ed era arrivato a sfiorare il miliardo per l'appunto. Beh, quello che dicevi tu, insomma, evidentemente per risparmiare bisogna prendere allenatori giovani di provincia e che possibilmente non abbiano ancora vinto nulla, altrimenti bisogna sborsarne certo i soldi. Abbiamo poi fatto questo gioco con quelli che sono, diciamo, gli acquisti più importanti dell'epoca moderna del calcio. Sì. Il più importante che ci è venuto in mente è ancora qui il Napoli protagonista, quello di Diego Armando Maradona. E qui con grande sorpresa, perché all'epoca appunto delle casse del Barcellona finirono 13 miliardi di lire. Di lire. Si parlò appunto di un acquisto scandaloso, il Napoli si indebitò e da quel debito poi mai coperto, mai recuperato, non si sa perché, anche perché Napoli, insomma, poi ebbe la possibilità di fare grandi incassi, sì, in quell'epoca. Poi il Napoli è arrivato al fallimento e molti addebitano, insomma, proprio a quell'acquisto folle le radici del fallimento del Napoli di Ferlaino. Però quel valore attualizzato ci porta più o meno a 16-17 milioni di euro, una somma che tutto sommato, insomma, oggi si spende per un giocatore medio-alto, insomma, non per una punta. Beh, se ne offrono 10 per un ragazzino del Brescia, che magari sarà un fenomeno, ma al momento è un carneade, 16 per Maradona, che era già Maradona a tutti gli effetti, perché quando venne al Napoli aveva 24 anni, forse si potevano anche spendere. È questa follia che avanza e che per esempio ha trovato un momento, diciamo, di grande esplosione nel 2000, probabilmente nel 2000, diciamo, la bolla speculativa del calcio ha avuto come quella del web, dell'online, di tutto quello che aveva a che fare con la telematica. Il momento tipico, perché l'acquisto per esempio del Real Madrid di Zinedine Zidane di 70 milioni di euro attualizzati fanno addirittura 83 milioni di euro nel 2008. Beh, e impallidiscono rispetto, non stiamo parlando di una cifra ovviamente che è stata pagata 15 anni dopo, però sì, parliamo insomma di una somma molto simile a quella di oggi, perché in fondo sono passati 9 anni, ci sono un po' di milioni di euro in più, ma Kakà ha anche 4-5 anni in meno di quelli che aveva Zidane quando nel 2000 Zidane, beh, aveva 28 anni, no, per la verità gli anni erano soltanto due in più, però insomma ci sta, mi pare che la follia del Real di allora non sia poi così diversa da quella che voleva fare adesso. Evidentemente, solo che in Spagna non hanno il petrolio, insomma, quindi, e quindi forse è più folle quella che... C'era questa discreta differenza. Allora, vedo già molti ascoltatori collegati sul display, concludiamo rapidamente, Marco, questo Amarcord, questo parallelo, magari con un caso limite. Beh, un caso limite è quello per esempio di Crespo, che sempre nel 2000 è passato dal Parma alla Lazio per 51 milioni di euro, 100 miliardi, e la follia di quell'acquisto, diciamo, si è, come dire, manifestata qualche anno dopo, quando le due proprietà, quella della Lazio di Sergio Gragnotti e quella del Parma di Callisto Tanti, sono state travolte da scandali finanziari, ma quella è un'altra storia. La trattativa tra galantuomini in piena regola, esatto, no? Come poi la storia ha dimostrato. Io chiuderei in maniera molto veloce su una considerazione. La Serie A spende per stipendi e premi circa 660 milioni di euro. Visto che ne incasserà per esempio nel 2010 con la vendita collettiva dei diritti televisivi, se va bene, 900 milioni, spenderà oltre quindi due terzi dei propri introiti in stipendi e premi. E c'è qualcosa che continua a non andare. Allora, con Marco Bellinazzo prendiamo appuntamento sin da ora per giovedì, vi dicevo, per un argomento estremamente interessante. Dal 1 gennaio scorso è entrata in vigore una norma della WADA, mi pare, dell'Agenzia Antidoping Internazionale, che rappresenta, a parer mio, a parer tuo, una palese violazione dei diritti civili degli atleti. Vorrei che li accennassi brevemente e che spiegassi anche perché finora di questa storia non se ne è parlato. Non se ne è parlata perché riguarda atleti di vertice, per esempio tutti quelli che giocano in Serie A e che debbano essere, diciamo, debitamente informati dal CONI e dalle federazioni su questo cambio di norme. Di fatto sono le nuove regole mondiali antidoping applicate in Italia dal 1 gennaio 2009, come hai detto, che comporteranno sostanzialmente una sorta di libertà vigilata per gli atleti, che dovranno dare, diciamo, una reperibilità 24 ore su 24, cioè dire cosa fanno durante la giornata, dove sono, e in particolare durante un'ora della giornata, che dovranno appunto indicare ogni giorno, dovranno essere per forza e obbligatoriamente in un posto ed essere disponibili per essere sottoposti appunto ai controlli. Rischiano una squalifica in caso, diciamo, di mancata reperibilità fino a 2 anni. Viene equiparato sostanzialmente al doping la mancanza è tosta. Ultima cosa, quando diciamo è entrata in vigore dal 2009, non è ancora stata riconosciuta però dal CONI? No, il CONI l'ha riconosciuta. L'ha riconosciuta, le norme sono... Ma sono già operative? Sono quindi già operative, il CONI le sta attuando, anche se abbiamo detto con un minimo di, diciamo, cum grano salis, per parlare in termini giuridici, cioè con un minimo di intelligenza. Ma non può accadere oggi, per esempio, e questo te lo domando seriamente, non può accadere oggi che in questo momento un giocatore abbia già dovuto dare la sua reperibilità? Guarda, innanzitutto i controlli, per esempio, a fine partita sono già cambiati, nel senso che erano a sorteggio, no? Come tutti sanno, i tifosi sanno, mentre ora sono nominativi, cioè dal CONI parte una lettera al medico che farà i controlli con i nomi di quelli che saranno sottoposti al controllo antidoping. E quindi non è più a sorteggio, ma è nominativo. negativo. Di fatto, già dalla scorsa giornata di campionato. E infatti la Associazione Italiana Calciatori ha già manifestato la propria contrarietà a queste norme. A questa norma. Le norme sarebbero applicabili, dico, uso il condizionale, perché sono effettivamente in vigore, ma il CONI sta cercando di applicarle con intelligenza, cercando, diciamo, di mediare tra le esigenze di privacy dei quindi diciamo degli che è una fase transitoria, ma in pura teoria sarebbe già in questo momento esattamente. La reperibilità. Poi chiariremo come, in che modo questa reperibilità dovrà essere data o potrà essere eventualmente modificata. Sa di fatto che per il momento, insomma, quasi nessuno se ne è accorto. Ma se ne accorgeranno presto gli atleti. Nessuno ne ha parlato, anche questo è un caso che è stato sollevato sabato scorso da un articolo del Sole 24 Ore. Grazie a Marco Bellinazzo, a che ha firmato anche questo. Appuntamento tra noi a giovedì, e adesso ascoltatori, possibilmente con un minimo di sintesi, perché vedo che siete, secondo me non siete tanti, siete troppi, però ci proviamo velocemente. Provincia di Firenze, Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo appunto riportare il fatto che questa vicenda di Kakà mi ha ulteriormente allontanato, insomma, dal calcio, e soprattutto anche questo report di Bellinazzo, che l'ho trovato non divertente, come ha detto lei, ma abbastanza inquietante, perché soprattutto non nel rapporto Rocco Mourinho, ma nel rapporto lavoratore reale con diciamo, questi pseudo lavoratori, sono i calciatori, anche perché trovo che queste società si indebitano all'eccesso e vengono tutelate oltre misura, in quanto magari società appunto del mondo reale sarebbero state fatte fallire ampiamente. Non c'è alcun dubbio. Mentre invece se falliscono, come è già accaduto, no, le società calcistiche, c'è subito una legge straordinaria, il celeberrimo e mai abbastanza lodato da loro signori Lodo Petrucci, che gli consente di ricominciare immediatamente, perché era lasciato sul lastrico dei tifosi. Se invece lascia sul lastrico dei lavoratori e annulla e cancella gli stipendi, vigliacco se qualcuno si muove. Questa purtroppo è la realtà. L'altra realtà, lei l'ha sottolineata bene all'inizio, è l'enorme crescita del distacco tra paese reale, e cioè tra quello che lavora, e paese virtuale, oppure tra paese che lavora e paese che gioca. Poi quello che gioca, per carità, fa la felicità di chi lavora, perché è chi lavora che va a vedere giocare, però insomma una volta il rapporto era leggermente più umano. Pietro, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo mettere in risalto che il Milan ha gestito in maniera scientifica tutta questa operazione. Non ha mai fatto trasparire neanche una minima possibilità che si potesse ritoccare l'ingaggio. I tifosi del Milan sabato sera hanno esposto striscioni contro la società inneggiando Kakà. Kakà sarebbe un eroe se neanche le avesse prese in considerazione le sirene inglesi. Lui sapeva perfettamente che a Manchester il suo appeal e la sua visibilità sarebbe venuta meno, conseguentemente ha usato il Manchester per poter avere tanta visibilità oggi. Ne trarrà beneficio adesso a Milano e magari in futuro a Madrid. Berlusconi invece ha gestito in maniera esemplare tutta la struttura, perché non ha mai fatto trasparire la benché minima possibilità di ritocchi ulteriori di ingaggio, e questa è stata un'operazione che deve servire anche da esempio agli altri presidenti quando hanno i giocatori brasiliani, soprattutto brasiliani che già soffrono di saudade in Italia, figuriamoci nella triste Manchester. Tutto qua. Grazie Pietro. Filippo da Trento, buongiorno. Buongiorno, io mi ricollego un attimo al discorso aggiungendo, io di lavoro faccio il settore. Filippo, la dobbiamo richiamare, non abbia pazienza, non si sente nulla. Marco da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno, anch'io volevo riportare un attimo il discorso un po' sulla valutazione tecnica riguardo come ha fatto Kakà, il discorso romantico, del discorso del cuore, dell'attaccamento alla maglia, eccetera. Che voglio dire, fosse stato, come avete detto prima, Real Madrid, Manchester United, eccetera, poteva anche andare, ma il Manchester City viaggia nei bassi fondi della Premier League, insomma, sarebbe stato secondo me un salto nel buio, insomma, magari quello che guadagnava subito in più a Manchester, magari a lungo andare lo guadagna a Milano, che insomma è stata di una società che ha fatto questa stagione che è finita in Coppa UEFA, eccetera, ma insomma lotta sempre per i vertici, sia in campionato che in Coppa, quindi voglio dire, con la valutazione tecnica, sì, il piacere più grosso è stato per il Milan, magari questi se erano delle reali cifre, 120 milioni di questi tempi. Ma anche soltanto 100 potevano non guastare, no? per rimettere in quadro i bilanci societari, magari anche per un po' di tempo, o per reinvestirli come invece qualcuno si augurava. Certamente, ecco, diciamo questo, che Kakà da un punto di vista sentimentale alla fine si è comportato in maniera splendida, da un punto di vista sentimentale e alla fine. Da un punto di vista dei riflessi, no? Meno, perché insomma, forse bastava guardare, insomma, si presume che un calciatore di quel livello sappia più o meno di che caratura è la squadra e la società che lo cercano. Se per caso non era così documentato, dava un'occhiata alla classifica della Premier League e magari ce la menava un po' meno, ecco, come dite voi per l'appunto a Genova. Gianni da Siracusa, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Mi scuso per la leggerezza dell'argomento. Io sono un tifoso del Palermo. Sì. E vorrei approfittare, tifoso fra virgolette però, vorrei approfittare dell'occasione per fare i complimenti a Marco Bresciano per i gol, ma anche per il modo con cui festeggia. Mi sembra un modo intelligente, simpatico, originale, soprattutto esente dal rischio di ammonizioni, a confronto di tanti altri che prendono a calci bandierine o si spogliano. Mi sembra una cosa da sottolineare. È vero. Buonasera. È vero, grazie a lei Gianni. Filippo, Trento, buongiorno. Eccoci qua, mi sentite? Adesso sì. Bene. Niente, io mi volevo ricollegare al discorso della gestione di tutta la trattativa. Io di lavoro faccio il mediatore e sono felice che in questo frangente sia stato mandato un messaggio chiaro a tutti coloro che speculano in modo osceno su un giocatore in questo caso. Anche perché tante volte ci si dimentica che dietro alle volontà, tra virgolette, di un giocatore ci sta un entourage, mi passi il termine, a cui non frega molto, basta che arrivi alla fine il denaro contante in tasca, quindi la volontà di un giocatore tante volte è frutto della speculazione oscena fatta dai mediatori. Io sono felice che il Milan abbia preso una posizione di questo tipo e gli abbia detto: se vuoi andare vai, assumi la responsabilità, però non venire a battere cassa. Quindi ha assunto una posizione molto chiara e io ne sono felice. Ma insomma, tutti alla fine, quando insomma, quando va così, tutti ne escono molto molto bene. Poi magari io credo che l'effetto positivo per il Milan sarà in campionato, penso che sarà in campo, perché Kakà a questo punto sarà molto più sarà più galvanizzato, sarà più carico, magari ridiventerà, perché lo è stato a tratti nel giorno d'andata, ridiventerà il grande trascinatore adesso che Pato è salito di rendimento. Se appena riescono a tenere un po' alla larga un paio di soprammobili di troppo che hanno lì in squadra, io penso che Kakà e Pato possano trascinare il Milan anche dove, proprio in forza di quello che è successo anche in questi giorni. Come sia andata poi e come andrà a finire poi e che lezioni abbia dato a chi in questa vicenda, secondo me lo scopriremo vivendo, su quello ci andrei un pochino più piano. La rubrica Sembra Ieri a cura di Nicola Filippone. Sembra Ieri. 20 gennaio 1985. Tra il primo e il secondo tempo di Udinese-Milan, il tecnico rossonero Nils Liedholm pesca dal cilindro un enorme talento. È Paolo Maldini, che a 16 anni e mezzo debutta in Serie A, sostituendo Battistini nel ruolo di terzino destro. Il figlio di Cesare dimostra subito di avere personalità, marcando senza timore un attaccante di esperienza come Franco Selvaggi, che nel primo tempo aveva portato in vantaggio l'Udinese, poi raggiunta nella ripresa da Mark Atley. Il pareggio di Udine sarà anche l'unica presenza in campionato per Maldini, che però nella stagione successiva saprà già conquistarsi un posto da titolare come terzino sinistro, diventando, nel volgere di pochi anni, uno dei migliori interpreti mondiali del ruolo. Qualche notizia è arrivata nel frattempo. Allora, intanto è confermato: Robinho ha lasciato il ritiro del Manchester City a Tenerife, dove la società era per l'appunto in ritiro, nessuno sa dove si trovi, rischia a questo punto pesanti sanzioni dal club, pare che abbia preso malissimo per l'appunto questa mancata promessa di essere raggiunto prima o poi da Kakà. Dopodiché vigilia di Inter-Roma di Coppa Italia, quarto di finale a eliminazione diretta domani sera a San Siro, Totti non ci sarà, si era parlato di uno strepitoso anticipo nel recupero di guarigione, sarà a disposizione effettivamente di Spalletti per Napoli-Roma di domenica prossima, ma le possibilità ventilate da qualche parte che Totti venisse già inserito tra i convocati per domani sera sono state invece smentite. Totti resta a casa, ha detto Spalletti, e ci sarà disponibile per Napoli, mentre nella conferenza stampa di vigilia interista contro la Roma usciranno da parte dell'Inter rispetto a domenica Bergamo usciranno Cordoba, Maxwell e Obin. Tocca a Fabrizio da Alessandria, buongiorno. Buongiorno, volevo riagganciarmi al discorso di Jetson, volevo verificare se i miei ricordi di gioventù non volevano Jepson come acquisto del Torino per 107 milioni, poi passato al Napoli per finire la carriera. Contrario. Fabrizio, contrario. Allora bisogna che faccia un po' di gerovità. Sì, no, perché deve fare un ripassino, ma contrario sicuro. Jepson fu comprato per quella cifra stratosferica dal Napoli, giocò a Napoli segnando un sacco di gol per alcuni anni, poi verso fine carriera fu acquistato dal Torino e giocò nel Torino uno o due stagioni, questo non glielo so più precisare, ma a fine carriera, quindi è esattamente il contrario di come ricordava lei. Un commento ovviamente felice sul conto di Kakà è quello del suo mentore Leonardo. Credo che siamo tutti felici, no? Avere una lunga serata, direi anche più di una serata, un po' di giorni, un po' di grandissime emozioni, credo che per tutti noi. Credo che alla fine è una fine felice, credo siamo un po' stanchi perché sono state veramente emozioni fortissime, ma credo che forse è anche un momento di pensare a tante cose, per quello è stato un momento di riflessione per tutti e credo che si era forzato tutto. Credo che lui era molto tranquillo dopo, era molto felice perché sicuramente viveva delle sensazioni varie, era difficile anche capire, situazioni difficili che quando sono coinvolte così tante persone, perché c'erano tante persone coinvolte, principalmente i tifosi sono stati determinanti e dopo il presidente è stato molto bravo, diciamo, nell'ultimo momento. Io credo che sono momenti che ci sono tante cose da valutare che diventa tante volte anche difficile da capire, e alla fine credo che la cosa che è stata, diciamo, capita da tutti è questo amore che non può finire. Asse Jepson giocò la tua ultima stagione al Torino nel campionato 56-57, quindi più di mezzo secolo fa, giocando 19 partite e 7 gol. Tocca ad Antonello da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, saluto Garanzini. Una curiosità più che altro, eroe Kakà sicuramente per come insomma ne è uscito da questo discorso. Eroe? Sì, eroe tra virgolette. Però ma ce ne metta tante di virgolette. No, volevo sottoporle una domanda, o meglio una curiosità. Se quelle stesse cifre fossero arrivate da squadre tipo Real Madrid o Manchester United, lei pensa che Kakà sarebbe uscito dal balcone battendo sul petto la mano? Non era un balcone, era una finestra. Credo è una finestra. Credo che la finestra sarebbe... Secondo me ma l'abbiamo già detto. Per cui... Sì, dicevo, l'unico motivo per cui ha detto no è perché il Manchester City, fosse stata un'altra squadra, avrebbe salutato tutti quanti a Milanello, presumo, una mia personalissima opinione. Adesso ho capito la parola, l'uso della parola eroe, che purtroppo viene ignobilmente fatto troppo spesso dai media, e quindi pensavo che davvero lei l'avesse spugnato. Invece per fortuna era così, era usato in maniera ironica. Io non lo dico certo per screditare Kakà questo, lo dico perché insomma, è vero che oggi l'italiano lo si insegna, lo si studia in maniera un po' più approssimativa di un tempo, ma insomma eroe vuol dire qualcosa che non ha nulla a che vedere con il mondo dello sport, tantomeno di quello iperprofessionistico. Dunque il processo a Napoli è iniziato, il processo di Calciopoli, a Calciopoli è iniziato ed è stato subito rinviato al 24 marzo, rinvio dovuto alla mancata notifica dell'udienza a diversi imputati. Da questa prima brevissima udienza è stata dedicata all'esame delle costituzioni di parte civili che saranno poi completate per l'appunto il 24 marzo. Nel procedimento risultano al momento costituite come parti civili contro gli accusati, oltre alla Federazione Italiana Gioco Calcio, anche il Brescia, il Bologna, sia il Bologna attuale sia la società dichiarata fallita negli anni scorsi, l'Atalanta, il Lecce, la Roma e la società fallita della Salernitana. Tocca a Stefano, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Dica. Anzitutto, da tifoso juventino, volevo premettere che avrei trovato molto avvilente vedere un giocatore del calibro di Kakà giocare nel Manchester City. Per cui, da tifoso di calcio in generale, sono felice che non ci sia andato. Adesso la trattativa è sfumata, sono tutti vincitori e sono anche il Milan... insomma fa professione di grande attaccamento a Kakà. In realtà secondo me mi sembra che il Milan ne esca abbastanza con le ossa rotte, perché ha sempre dichiarato Kakà incedibile, invece ha dimostrato che era solo una questione di prezzo, perché era pronto a cederlo, bastava solo diciamo mettersi d'accordo sul quantum. Non so quanto, e questa è una domanda che rivolgo a lei, quanto questo atteggiamento possa incrinare un rapporto Kakà-Milan. Questo non lo so, non lo so davvero neanche io, lo capiremo andando avanti. Io credo che, lo ripeto, a breve lo rafforzi questo rapporto, a breve o a brevissimo, insomma istantaneamente. Cioè lo ha già rafforzato, voglio dire, in queste ore, e questo si tradurrà anche sul campo, ma questa è una sensazione mia. Epidermica, che però non credo di sbagliare. Come poi invece si rinsalderà o si affievolirà, lo scopriremo, ripeto, vivendo, a seconda di come è andata davvero. Perché poi non è poi davvero detto che ce l'abbiano raccontata tutta e tutta giusta, e non è nemmeno indispensabile da parte loro, perché non se ne vedrebbe la ragione. Bruno da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto volevo dire la mia su Kakà, sul caso Kakà. Sì. Secondo me questa è una delle ennesime dimostrazioni, come il teorema che ha portato Silvio Berlusconi in politica, che era un teorema scritto nel fondamento di Forza Italia, cioè dovete pensare che gli italiani hanno la maturità di un bambino di 8 anni, sia ancora una volta esatta, perché abbiamo l'anello dal naso e da vedere le reazioni di molti che chiamano lei mi rafforza in questa convinzione. Parliamo, ce lo spiego subito. Kakà aveva già dei grossi dubbi per andare al Manchester City, non è che l'ha impiegato dei giorni per risolverli. Lui sapeva benissimo che il calcio non è soltanto un guadagnare milioni di euro in più per lui, che è già multimiliardario, quindi non è che gli cambiava molto. Sapeva benissimo che avrebbe eclissato la sua carriera per anni, perché non sarebbe stata la ribalta. Tempo che ci stava, sì. Pronto? Sì, per il tempo che ci sarebbe stato, certo. Sì, il tempo necessario a Manchester City di passare dalla Serie B inglese a forse a una bella Coppa UEFA, questo che sia. Il problema è che era il Milan che vuole venderlo, avrebbe voluto venderlo, soltanto che... Andava presentato in una certa maniera, ma soprattutto dato che Silvio Berlusconi è molto sensibile ai movimenti d'opinione eccetera, ha visto che probabilmente non conveniva in futuro, sia per l'aspetto tecnico del Milan sia per quanto riguarda la sua immagine. Cioè io sono convinto, Bruno, che... c'è molto, mi scusi, il tempo sta passando, abbia pazienza, e c'è ancora un ascoltatore prima di chiudere. È una ricostruzione ricca di dietrologia, ma non mi pare poi così del tutto campata in aria, nemmeno la sua, insomma. Io una vicenda del genere ci sta tutto. Adesso Fulvio, mi spiace, ma ha esondato l'ascoltatore di prima, Fulvio della Reggio Emilia, brevemente, mi dica. No, volevo solo, ho preso spunto dal suo collega che parlava di Maldini, della sua vita calcistica, e pensavo, invece di dare il solito pallone d'oro, che è giusto che sia, e darlo a uno che ha fatto la carriera come Maldini, come Baresi, secondo lei potrebbe essere un'idea sbagliata? Intanto non è originale, Fulvio, abbia pazienza, non è nuovissima, e poi non lo so sinceramente. Io continuo a dire che i premi individuali per gli sport collettivi mi lasciano molto, e mi lasceranno sempre molto, ma molto freddo. Grazie anche a lei, grazie a Peter Bescapè in regia, Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani a Giornale Radio.